Buonasera. La Terra, presa come territorio riservato alla vita, è uno spazio chiuso, limitato dalle frontiere dei sistemi di vita, la biosfera, insomma, un giardino o anche un vigneto. Appena enunciata questa affermazione inchioda ciascun essere umano, passeggero sulla Terra, alle proprie responsabilità, quale garante del mondo vivente che ha ricevuto in gestione. Ed eccolo diventare un giardiniere, oppure un vignaiolo come Eris. Eris, vieni. O come Paola, vieni. O come Daniele, vieni. Quello che vorremmo fare qui questa sera è un assaggio, una degustazione. Un racconto, non lo so. Saranno loro i protagonisti, perché saranno loro a parlare. Molto spesso, quando assaggiamo un vino, siamo molto concentrati sul bicchiere. Siccome io non sono capace di fare delle degustazioni come quelle che ha fatto Gigi prima, dove ci mette dentro tutto il mondo e tutta una filosofia. Ho pensato che era meglio che parlassero loro invece, che sono quelli che fanno il vino. E quindi faremo una degustazione laterale, nel senso che loro ci racconteranno delle cose su come fanno il vino, ma non solo, perché appunto abbiamo chiamato questo incontro il Vignaiolo Planetario. L'abbiamo un po' rubato da questo libro che forse qualcuno di voi conosce, che l'ha scritto un signore che si chiama Gilles Crémant. Si chiama il giardiniere planetario. Però io ho pensato che non esistono solo giardinieri planetari che si prendono cura di uno spazio e mettono se stessi in uno spazio per mettersi però in relazione con gli altri, e torniamo alle contaminazioni di cui parlava Gigi prima. Ma possono esistere anche dei vignaioli che fanno questo. Loro tre non sono stati scelti a caso questa sera, sono stati scelti chiacchierando sempre all'interno dei percorsi della Terra Trema. Perché vengono qui da tantissimi anni, da prima che questa manifestazione si chiamasse La Terra Trema, quando si chiamava Terra Libertà Critical Wine, ma in sostanza c'è un filo conduttore, non vogliamo guardare al passato, guardiamo sempre al futuro. Ma per dire che li conosciamo molto bene, che tra di noi oramai c'è una relazione, per tornare a spazi e a contaminazioni. E quindi fanno dell'agricoltura biologica o della viticoltura biologica, per esempio, per citare una parola che è sempre più una front word, no? Ma non lo sappiamo, forse non hanno un'etichetta, o forse ce l'hanno, qualcuno di loro ce l'ha, qualcuno di loro non ce l'ha. Come diceva Veronelli, eccolo qua, questa era la sua rivista, tutta l'agricoltura biologica, ma proprio tutta. Scusate, tutta l'agricoltura, ma proprio tutta l'agricoltura, ma proprio tutta, ha da essere biologica. Non biologica non è agricoltura. È lo stupro della terra con prodotti orrorifici della scienza. Questo era il suo modo di scrivere, no? Un po', però, quindi così molto appassionato. Che però diceva bene, no? Quello che è un po' anche il senso che sta dietro a incontri come questo. Non vogliamo soltanto proporre dei vini, proviamo a proporre delle storie e anche una filosofia. Questa filosofia, appunto, che è un po' una filosofia veronelliana che ognuno di noi si porta dietro, non per avere un nome tutelare, ma perché vogliamo prendere quelle affermazioni e trasformarle in affermazioni del futuro, praticarle. E loro le praticano ogni giorno, è per questo che stasera vogliamo che ce le raccontino. Voglio dire però un'ultima cosa prima di passare a chiedere a loro delle cose, perché io chiederò a loro delle cose e loro saranno così bravi da rispondere velocemente alle mie domande, così voi non vi annoierete, finiremo presto e poi alla fine impareremo delle cose e anche assaggeremo i loro vini, perché ognuno di loro ha portato qui il vino che per lui o per lei è più significativo. E saranno loro a degustarlo e a raccontarlo. Poi naturalmente ognuno di noi sarà libero di aggiungere il proprio commento e la propria degustazione. Volevo però appunto dire un'ultima cosa, non perché guardo al passato, ma sempre perché guardo al futuro. Rovistando nella mia libreria l'altro giorno ho trovato questo. Non si vede neanche perché è un libro proprio no marketing. Si chiama Le cantine di Veronelli. È stato edito nel 1987. Bravo, bravo. È lotta insieme a noi, esatto. Questa qui è la prima guida vini esistente in Italia, oramai pullulano, però questa guida, io volevo dirlo, non è uno spot, ma è una cosa veramente che mi viene dal cuore. Le cantine di Veronelli, adesso si chiama I vini di Veronelli, che siccome appunto non siamo degli esperti di marketing, non abbiamo neanche qui questa sera. Però io vi voglio dire che la guida I vini di Veronelli è la prima guida. Prima, scegliete voi che significato dire, dare e dire di questa parola. La filosofia che c'è dietro a tutto questo è la filosofia che c'è nei racconti che cercheremo di raccogliere questa sera. Allora,